I personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. C'è un tema antico quanto l'uomo: cosa siamo disposti a fare per amore, o meglio addirittura che cos'è l'amore. È qualcosa di altruista, qualcosa di che ti spinge a volere il bene dell'amato, anche passando sopra il proprio, o è comunque soddisfacimento della propria voglia di essere amati? Insomma, siamo disposti a amare talmente tanto da accettare tutto per il bene dell'altro? Finché si parla dell'amore di un genitore verso il figlio, bene o male siamo tutti d'accordo. Insomma, il genitore ama il figlio e sa che non sarà mai riamato quanto amerà lui. Però quando invece entriamo nei rapporti di coppia, le cose si complicano. Eh sì, perché in questo caso scattano altri meccanismi che hanno anche poco a che vedere con l'altruismo, cioè la gelosia, il desiderio di possesso, l'esclusiva nei confronti della persona che amiamo. Però poi ci sono alcuni spiriti, forse eletti, alcune persone che riescono a amare con una tale intensità da dimenticare se stessi, desiderare solamente la felicità della persona amata, anche se questo può significare perderla. Bene, oggi raccontiamo la storia di un uomo così, un personaggio non certo sdolcinato, un guascone, un soldato, uno scontroso dal pessimo carattere, un uomo apparentemente rude, bravo di spada, di parola, capace sia con la spada che con la parola di scoccare colpi terribili all'avversario, ma anche un uomo capace di un amore candido, raffinato, impossibile, che compie il sacrificio estremo pur di vedere felice la sua amata. Insomma, lui consegna la sua amata al suo avversario in amore, con tutto l'altruismo di chi ama veramente. Il nostro protagonista di oggi è Cyrano di Bergerac. Egli è il più squisito essere sublunare, rimatur, spadaccino, fisico, musicista, e la più strana faccia d'uom che si sia vista. La più balda figura di tutte le più balde, feltro a pennacchio triplo, giusto cuore a sei falde, cappa che sulla spada s'alza pomposamente dietro, come la coda di un galletto insolente. Nel suo pulcinellesco merletto intorno porta un naso, ahimè signori, di che sorta? Voi sorridete e dite, or se lo toglie. Ma che, il Sir di Bergerac lo porta ognor con sé. Sicuramente questo lo sapete, insomma, la caratteristica fisica di Cyrano, il cui nome completo è Cyrano Ercole Savignano di Bergerac, la sua caratteristica che lo rende così poco gradevole è il suo naso. È un naso enorme, sproporzionato dalla forma stravagante, è quasi un'entità a parte, è un compagno ingombrante, insomma, soprattutto quando poi si tratta di fascino, di affari di cuore. E Cyrano è consapevole che questo naso è il suo punto debole, è convinto che nessuna donna al mondo possa innamorarsi di lui perché il suo volto è deturpato da quella presenza sgraziata, e stiamo parlando di tempi in cui non ci sono ancora i chirurghi plastici. Insomma, nel caso di Cyrano l'unica sua compagna è la spada, oltre alla sua favella, la spada che lui sfodera non solo quando deve combattere i nemici, perché Cyrano è un soldato, è un cadetto di Gascogna al servizio del re, stiamo nel 1600, lui la spada la sguaina volentieri anche quando qualche sprovveduto ha l'ardire di accennare a questa sua caratteristica fisica. Insomma, non ama essere preso in giro sul suo naso. E lui, Cyrano, è abile nel duellare, ma lo è anche con i giochi di parole e con l'arguzia da fine dicitore. Voi avete un naso molto grande. E assai ben poca cosa se ne potevan dire. Ma ce n'erano a iosa, variando di tono. Si poteva put a caso dirmi in tono aggressivo: se avessi un cotal naso, immediatamente me lo farei tagliare. Amichevole. Amico, quando bevete deve pescare nel bicchiere. Fornitevi di un qualche vaso adatto. Descrittivo. È una rocca, è un picco, è un capo affatto, ma che è una penisola. Curioso. A che serve questo affare, o signore? Forse da scrivania o da portagioielli? Vezzoso. Amate dunque a tal punto gli uccelli che vi preoccupaste con amore paterno di offrire alle loro piccole zampe un sì degno perno? Truculento. Ehi, messere, quando nello starnuto il vapor del tabacco esce da un tale imbuto, non gridano i vicini al fuoco nella cappa? E questo l'avete riconosciuto, il grande Gigi Proietti, che ha dato una interpretazione magistrale di Cyrano in teatro. Quindi insomma, del naso di Cyrano può parlare solo lui. Guardarlo un secondo in più può significare il rischio di assaggiare la sua spada. Ma lui, Cyrano, è un uomo apparentemente rude, aggressivo, dotato di acume, di grande cultura, di grande coraggio, e nasconde però questo segreto nel cuore. È un amore impossibile, un amore che lo accompagnerà e lo farà soffrire per tutta la vita. I know the name on the tip of your tongue, and I know the accusing look. Everybody knows I've been so wrong, that's the problem, and here's the hook. Tears before bedtime. Cyrano di Bergerac ama, e ama con tutta la sua passione, la passione di un uomo forte, dalla fisicità prorompente, sgraziata, ma dall'animo profondo. Nutre un candido amore impossibile per sua cugina Maddalena Robin, che però tutti chiamano Rossana, e lui la conosce bene Rossana perché sono cresciuti insieme. Lui ha visto sbocciare in lei il fiore più bello che esista, la bellezza unita alla modestia, alla riservatezza. Insomma, Cyrano la ama con tutta la forza che possiede, ma nessuno saprà mai nulla di questo suo amore. Eh già, perché lui non ha speranza, è troppo brutto, il suo naso si frappone tra il suo amore e Rossana. Siamo nel 1600 e un naso così te lo devi tenere. E poi immaginate che attorno a Rossana ci sono tutti i cadetti di Guascogna. Lei ha un'ampia scelta dalla quale attingere. Insomma, è una ragazza che piace tanto agli uomini. Una sera del 1640 Rossana si presenta al teatro dell'Hotel di Borgogna nel centro di Parigi per la rappresentazione della Cloreste con un celebre attore, Montfleury. A suo apparire rimangono tutti sconvolti dalla sua bellezza, i commenti si sprecano, commenti nobili, insomma non siamo negli anni sboccati di oggi, ma tutti la definiscono un astro, una pesca, una fragola, sono tutti catturati da Rossana. E lei siede in alto nel suo palchetto privato, seguita dalla sua governante. Lei ricambia con pudore gli sguardi di ammirazione di tutti i ragazzi, i cadetti, e tra gli altri ce n'è uno che si chiama Cristiano de Novillette. È un ragazzo molto bello, però un po' fatuo, un po' vacuo, rozzo, ignorante, però quando i loro sguardi si incrociano scocca la scintilla, insomma un colpo di fulmine da entrambe le parti. E intanto arriva Cyrano, che ha lanciato una sfida all'attore, a Montfleury, il protagonista, perché lo giudica un pessimo attore, gli impedisce di esibirsi. In realtà Cyrano è geloso perché ha visto che l'attore, come spesso fanno quelli che stanno sul palco, sta puntando Rossana, e in questa azione di Cyrano c'è tutta la sua spavalderia, il suo essere guascone, però c'è anche il suo lato più puro, cioè il suo odio per gli ipocriti, per i leccapiedi dei potenti, per gli asserviti alla politica corrotta. E lui giudica Montfleury proprio così, un servo del potere, oggi si direbbe. Insomma, c'è un parapiglia, l'ingerenza di Cyrano nell'andamento della serata scatena gli animi. Ci sono quelli che sono andati al teatro, che hanno pagato il biglietto, che vogliono vedere lo spettacolo. Altri invece sanno che lo spettacolo migliore lo darà proprio Cyrano. Lui minaccia di morte l'attore, che si eclissa tremante a questo punto si fa avanti il visconte di Valver, che sfida Cirano e non sa in che guaio si è messo. Di Celandone più gentil, più fino di scaramuccia, al gioco dello stocco vi prevengo, mio caro paladino, che giusto al fin della licenza io tocco. Meglio vera tacir, signor mio bello. Dove ti infilzerò? Dimmi, tacchino. Sotto il giubbetto, al fianco ti sbudello, nel cuor, sotto l'azzurro cordoncino, volteggia la mia lama, un moscerino. Tintinnano le cocce. Odi che schiocco! E certamente in mezzo del pancino, giusto alla fin della licenza, io tocco licenza. Raccomandati a Dio, bel principino. Ecco, io mi inquarto. Io paro, io fingo, io stocco e là! Prendi piccino, giusto alla fin della licenza, o tocco. Bravo! Cirano è inarrestabile con la spada in mano e bravissimo a usare la parola, solo una debolezza, il suo amore segreto per Rossana. È un amore impossibile. Lui dice: con questo naso che mi precede di un quarto d'ora ovunque io vada, mi è vietato perfino l'amore di una bruta, figuriamoci quello della più bella. Eppure al termine del duello con il visconte, la governante di Rossana gli si avvicina, la cugina gli manda un messaggio, vuole vederlo l'indomani, e Cirano ci casca, fa quello che tutti gli innamorati infelici fanno, cioè si illude, perché spera che sua cugina abbia visto in lui un eroe pronto a difenderla, pronto a sfidare qualunque nemico, non solo con la spada ma anche con l'intelligenza, con l'arguzia, con la sagacia. Eh sì, Cirano si è proprio illuso, questa illusione gli scatena una forza sovrumana. Or con tutto un esercito ho bisogno di azzuffarmi, ho 10 cuori, 20 braccia, non può bastarmi sconfiggere dei nani, mi occorrono dei giganti, e in adrenalina piena data dall'amore. Così gli viene detto che il suo amico e rimatore legnere è in pericolo, perché un suo nemico gli ha teso un'imboscata con 100 uomini alla porta di Nel. Cirano non ci pensa un attimo, corre in soccorso del suo amico, sventa l'imboscata da solo, uccidendo i 100 nemici. La sua forza sono nutrite dall'amore, dall'impazienza che arrivi il momento dell'incontro. Bene, il teatro dell'appuntamento tanto desiderato da Cirano è la pasticceria di Ragueneau. Spazioso laboratorio all'angolo di via Saint-Honoré, la bottega del pasticcere Ragueneau ha in primo piano un banco, sormontato da una specie di trofeo di ferro, al quale sono appese oche, anatre, pavoni bianchi. I forni, nell'ombra sotto la scala, rosseggiano, il rame scintilla, gli spiedi girano, dei prosciutti pendono, ressa di enormi cuochi, sguatteri scalmanati, minuscoli assistenti. Ondeggiano berretti ad ala di pollo o penna di faraona. Si portano, sopra graticci, pile di brioche e villaggi di focaccine. Quindi, insomma, al di là dell'acquolina in bocca di questo locale meraviglioso, siamo a metà del 600 e i francesi hanno la tradizione dei grandi ouvroir, che sono dei laboratori di rosticceria, pasticceria al centro di Parigi, crocevia mondani in cui ci si incontra, un po' come i nostri locali alla moda di oggi, luoghi pubblici dove ci si può incontrare e chiacchierare in pace. Bene, Cirano ha l'appuntamento con Rossana alle 7, naturalmente alle 6 è fantozianamente già seduto a un tavolino della pasticceria, è agitato, non ha dormito un solo istante nella notte precedente. E Il nostro protagonista di oggi è il cadetto di Guascogna Cirano di Bergerac. È uno spadaccino, è un poeta, è un romantico, un idealista, è uno che combatte le ipocrisie del suo tempo, le ingiustizie, la politica corrotta, però è un uomo grande in tutto tranne che nell'estetica, è poco gradevole, la sua cultura sofisticata e il suo acume non sono sufficienti a far innamorare donne che hanno, come dire, altre priorità, e tra queste donne c'è quella che lui ama perdutamente, la sua bellissima cugina Rossana. Lui ha capito che il suo aspetto, il suo naso gli pregiudicheranno la compagnia di una donna innamorata, soprattutto se è la più bella di tutte, come lo è Rossana. E poi Rossana gli chiede un appuntamento e Cirano si illude, pensa che la ruota giri dalla parte giusta. L'incontro gli appare incredibile, lui spera che Rossana sia così profonda, così intelligente, così sensibile da riuscire a passare sopra al suo aspetto fisico. Spera che si sia innamorata di lui per il suo ardimento, per essersi battuto per lei, per la sua parlantina, per le sue rime baciate. Quando finalmente Rossana arriva alla pasticceria, quello che ha da dirgli, naturalmente, non è quello che Cirano aveva pensato e sperato per tutta la notte. Io sono innamorata d'un che tuttavia non sa, non ancora, ma lo saprà ben tosto, se tuttavia l'ignora. E vedete il caso, nel reggimento stesso in cui servite voi, giusto appunto s'è messo. L'amo, insomma. Sappiate però che non ancora l'ho visto sino adesso fuor che a teatro o un'ora. Me lo difenderete dunque voi, non è vero? Ebbi sempre da piccola per voi tanto affetto sincero. A tutti è capitato in gioventù, quando una donna ti dice: a te lo posso dire perché sei il mio miglior amico, vuol dire che con te non ci starà mai. È meglio che una donna ti odi. Se ti odia c'è qualche speranza, ma se ti dice ti voglio bene come a un fratello, è già finita prima di cominciare. E così accade. Lei ama un altro, ama Cristiano de Neuvillette. Cirano non lo conosce, ma se lo immagina, ha già capito. Aitante e spavaldo, poco istruito, per nulla colto, stupidotto, ma dal bel profilo. Probabilmente oggi avrebbe anche i capelli alla cresta, un tatuaggio, insomma, lui ne conosce tanti, Cirano, tra i cadetti. E quando lo incontra è esattamente quello che Cirano si aspettava. Ed è disperato Cristiano, peraltro, perché sono anni in cui l'amore si fa per lettera, non ci sono internet, WhatsApp, TVB e queste cose qua. Ci vuole uno spessore superiore. Rossana si aspetta una missiva, magari profumata con frasi intelligenti, e Cristiano non è all'altezza della situazione. Le sa trovare anche la lingua più fiacca, le frasi giuste quando ben attacca. Io sì, ho certo spirito pronto da moschettiere, ma davanti alle donne non son buon che a tacere, perché io son di quelli, lo so, e me ne affanno, che san fare all'amore, ma parlar non ne sanno. San fare all'amore, adesso questa poi vediamo. Comunque, Cirano si immedesima in questo ragazzo, è un giro della morte con il proprio pensiero, e si fa strada in lui un'idea terribile che mette insieme, come dire, la sua eloquenza con il suo aspetto più nobile, l'aspetto più nobile del suo amore. Insomma, uno alla bellezza, l'altro alla cultura, uno al corpo e l'altro alla mente. E così Cirano suggella un patto quasi demoniaco con questo ragazzo: uniamo i nostri benefici e creiamo un eroe da romanzo. L'avrei smesso di bere champagne tra le luci arancioni, avrei scritto canzoni d'amore di un piccolo amore più grande di te. Insomma, Cirano scende a questo terribile compromesso per amore, accetta di parlare alla sua amata attraverso la bocca di un altro uomo, e capisce che Rossana si innamorerà di lui, non saprà mai questo retroscena, e la sua anima, l'anima di Cirano, così raffinata e romantica, parlerà attraverso la figura del bel cristiano, bello e stupido. Anche i baci saranno veri, però saranno tutti per l'altro e non per lui. Insomma, in Cirano convivono due uomini, quello che ama talmente tanto da accettare tutto e quello che non accetta nulla ed è incapace di mostrare anche il minimo cenno di debolezza. Sentite questo passaggio tratto dal film francese Cyrano de Bergerac del 90, interpretato dal grandissimo Gérard Depardieu. Piacere, è il mio piacere. Amo essere odiato. Se tu lasciassi indietro l'animo moschettiera, la fortuna e la gloria. Sai a dirmi in che maniera? Andar sotto padrone? Cercarmi un protettore? No, grazie. Dedicare in ogni scartafaccio dei versi ai finanzieri? Buttarsi in un pagliaccio, sperando di vedere sul labbro di un ministro lo stato di un sorriso, un po' men che sinistro? No, grazie. Banchettare ogni giorno da un pinocchio? Avere il ventre logoro dalle marce e il ginocchio più prestamente sporco nel punto in cui si flette? Rendermi primatista in dorso piroette? No, grazie. Riconoscere talento ai dozzinali? Plasmarsi su ogni critica che appare sui giornali e vivere sognando? Oh, sento già il mio stile percorrere le bozze nel mercurio mensile? No, grazie. Fare calcoli? Tremare? Arrovellarsi? Preferire una visita a un paio di versi sparsi? Stendere delle suppliche? O farsi commendare? No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie, dice Cirano. No ai compromessi facili che gli farebbero avere una vita più semplice, con onori, denaro, e quando c'è il denaro magari arriva anche l'amore di una donna. No, la sua fede incrollabile nella giustizia, il suo rigore morale, il suo parlare chiaro sono decisamente impopolari in un'epoca corrotta, ma questo vale anche nella nostra epoca. Uomini così, insomma, sono rari e sono un esempio che non andrebbe dimenticato. Cirano è un grande uomo, è grande proprio per questa sua doppia anima che lo fa essere un grande soldato, valoroso, integerrimo, ma disarmato di fronte all'amore, di fronte a Rossana. Insomma, nasce, come possiamo definirlo, un Giano bifronte che mette in scena questa commedia dell'inganno. Cristiano si fa vedere, a parlare è Cirano, Cristiano si firma, a scrivere è Cirano. Il bacio di Rossana e anche tutto quello che probabilmente arriverà lo riceve Cristiano, anche se sono state le parole di Cirano a conquistarselo. Parlavamo di un bacio. No. Sì, è dolce la parola. Tacete. Un bacio, ma cos'è così d'un tratto? Un giuramento reso tra sé, se è un patto più stretto. Ecco un traguardo che insieme è un avvio. Un punto rosa acceso sulla i di amore mio, un bisbiglio alle labbra perché l'orecchio intenda, il brivido del miele di un'ape che sfaccenda, una comunione presa al petalo di un fiore, un modo lungo e lieve di respirarsi il cuore, di gustarsi in bocca l'anima poco a poco. Tacetevi, vi prego. Sì, taccio, vado a fuoco. E Rossana capitola all'istante. Le belle parole di Cirano unite alla bella presenza di Cristiano rendono il cocktail irresistibile. I due si sposano quella notte stessa, però poi si devono lasciare subito perché i cadetti devono partire subito per il fronte. Every day you're working like a slave, sweating in buckets, hoping that you get it right. Will it be as tough tomorrow? Have to wait and see. Life shows no mercy. Mercy. Al fronte Cirano prosegue la sua opera perché ogni giorno scrive una lettera a Rossana, naturalmente firmandosi Cristiano. Poi di notte attraversa le linee nemiche e rischia la vita per farla recapitare, e tutto all'insaputa di Cristiano. Un giorno però al campo dei cadetti, accerchiati dal nemico, arriva una carrozza carica di vettovaglie guidata dal pasticcere Ragen, quello del localino fantastico. Però a bordo c'è una dama, è Rossana, che travolta dalla impetuosità delle lettere non ha resistito, ha sfidato ogni pericolo per dire al suo amato che lo ama appassionatamente, non per la sua bellezza, lo amerebbe, sì vabbè, anche se fosse brutto. Cristiano è ignorante, ma non è stupido. Quelle lettere lui non le ha scritte. Capisce che Rossana è innamorata di Cirano e non di lui. E capisce anche che il suo amico la ama. Chiede a Cirano di dire la verità e che sia lei a scegliere. Cirano non se la sente e quando Cristiano viene ferito a morte, lui dice a Cristiano che Rossana aveva comunque scelto lui. E intanto lei si chiude in convento a pensare a quell'uomo al quale giura fedeltà eterna, l'uomo che le scriveva quelle lettere meravigliose. Passano gli anni, ne passano 15. Ogni sabato Cirano va a farle visita, sempre lo stesso giorno, sempre la stessa ora, e questo è diventato un po' lo scopo della sua vita. Si siede nella stessa poltrona, le racconta quello che succede in città, lui la chiama la Gazzetta di Cirano perché lei vive lì reclusa, non sa niente di quello che accade fuori. Un giorno però Cirano cade in un attentato, in una vile imboscata, viene ferito a morte e con uno sforzo sovrumano riesce ad andare al suo appuntamento e in punto di morte si tradisce perché recita a memoria l'ultima lettera firmata da Cristiano che aveva scritto lui. Rossana capisce tutto, però ormai è troppo tardi e Cirano muore tra le sue braccia. Sto per salire lassù nella luna opalina. Le anime che amo, simili agli estri miei, ritroverò in esilio tra Socrate e Galilei. Ah, filosofo, naturalista, maestro d'arme e rime, musicista, viaggiatore ascensionista, istrione ma non ebbe clac, amante anche, senza conquista. Qui giace Ercole Savignano, Cirano de Bergerac, che fu tutto, e lo fu invano. E termina così, al chiarore della luna, l'epopea di un uomo straordinario che ha amato l'amore più di se stesso e che e quindi è riuscito nella conquista più grande di tutte, cioè l'immortalità. Ci sono colpi d'ala che lasciano un segno, in questo caso che toccano. E il colpo d'ala di Cirano è stato proprio questo, essere talmente nobile da desiderare la felicità della persona amata a scapito della sua. Questo lo rende una persona particolare, speciale, immortale. Ognuno di noi può anche dare un grande colpo d'ala per volare in alto come il falco e il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, a me nei miei social, Facebook, Twitter, nei social della nostra trasmissione. Insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.